24. La storia. Al signor Ministro dell'Interno, operando in modo autonomo e personale, ma sempre nel principio di fedeltà allo Stato, ho preso contatto e ho sviluppato rapporti in tutti i settori e con ogni persona che ritenevo utile. Se le mie frequentazioni venissero interpretate come una scelta, io potrei essere considerato, caso per caso, fiancheggiatore di Autonomia Operaia e del terrorismo palestinese, agente del servizio americano o sovietico, emissario di questo o di quel partito politico. Sono le parole di Federico Umberto D'Amato in una lettera riservata del 1981 al Ministero dell'Interno. Oggi su Mix 24, con la voce di Paolo Bonacelli e con Marina Milone, raccontiamo la storia di Federico Umberto D'Amato, che per tantissimi anni è stato il più importante funzionario della divisione affari riservati del Ministero dell'Interno. Un ufficio chiave che gli ha permesso di seguire come un'ombra tutta la storia della Prima Repubblica. E quando nel 1996 D'Amato muore a 87 anni, la magistratura, il giorno del suo funerale, piomba nella sua casa in cerca del suo presunto archivio segreto. A casa di D'Amato la magistratura non trova nulla. Pochi mesi dopo, però, nel novembre del 96, viene ritrovato a Roma, in un deposito di via Appia, un archivio che documenta l'attività di un apparato di sicurezza della polizia attivo tra il 48 e il 74. Eppure in Italia il servizio segreto civile viene istituito solo nel 1977. La divisione di D'Amato, insomma, sembra avere operato clandestinamente per quasi 30 anni. Una divisione separata. E allora, qual è stato il ruolo dell'ufficio affari riservati? Come operava la struttura guidata da D'Amato? A raccontarlo sono due agenti che ne hanno fatto parte, Giuseppe Mango e Danilo Capaldi. I funzionari erano scelti direttamente dal direttore tramite le sue conoscenze con i vari uffici. La prima sezione si interessava della sinistra, la seconda sezione si interessava della destra, la terza sezione si interessava della stampa, e la quarta sezione della divisione operativa. Io facevo parte della squadra centrale, che si interessava, a richiesta del direttore, di controllare diverse persone. Acquisivamo notizie quando questo usciva, avevamo alcune fotografie per poterlo riconoscere e lo seguivamo per vedere con chi si incontrava, dove andava. Le squadre periferiche agli ordini di D'Amato si muovono sotto copertura, in totale autonomia dalle questure e, tra l'altro, non risultano negli organigrammi ufficiali. Da Genova, Torino, Milano, Verona, Firenze. Queste erano costituite dagli elementi più capaci e qui venivano completamente distaccate, loro dipendevano esclusivamente dagli affari riservati. Fonte Molotov, vice segretario sezione PC di Fratta Maggiore, vanta aderenze tra parlamentari e dirigenti. Fonte Leone, ferroviere, ha sempre dimostrato serietà. Fonte giornalista, elemento ottimo, fedele, volenteroso, ben addentrato nell'ambiente massonico locale e nazionale. L'ho chiamata polizia parallela perché facevano delle indagini separate rispetto al circuito istituzionale. Polizia parallela, così la definisce il magistrato Carlo Mastelloni, che avete appena sentito. La divisione viene costituita nel 1948 sulle ceneri dell'OVRA, la polizia politica fascista, che fa da modello al nuovo ufficio. Così si legge in un'informativa del SIFAR il 7 settembre 1958. La linea programmatica è anticomunista. L'obiettivo principale è la penetrazione nel PC. La maggior parte degli ufficiali e dei sottufficiali provengono dalle fila dell'OVRA. Già nel 44, del resto, con una serie di missioni segrete, molte camicie nere vengono arruolate nei servizi di sicurezza dell'Italia libera in funzione anticomunista. Dietro questa strategia, il capo dell'intelligence americana in Italia e al suo fianco un giovane poliziotto dal passato misterioso, Federico Umberto D'Amato. Sono nato il 4 giugno 1919 a Marsiglia. dove mio padre, questore di polizia, si trovava per lavoro. Lui era un napoletano di famiglia aristocratica, ma decaduta sul piano finanziario. Mia madre invece era una piemontese di origini operaie. Una volta a Roma, non volendo andare in guerra e morire per il duce, ho cercato di imboscarmi, dandomi malato per anni. Per ottenere l'esonero definitivo, poi, mi sono arruolato nella polizia pochi giorni prima dell'8 settembre. Riprendiamo subito dopo la viabilità. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta... Mix 24, la storia. Da solo ho catturato più tedeschi di quanti non ne abbiano presi i servizi americani, inglesi e francesi messi insieme. Ciò mi ha permesso di fregiare il mio petto di ventenne con tante medaglie quante ne brillavano sul petto settantenne di Ferruccio Parri. Bentrovati su Mix 24. Era un brano estratto da un'intervista a Federico Umberto D'Amato apparsa sul Borghese nel 1987. Nel giugno del 1944, il poco più che ventenne D'Amato incontra James Jesus Angleton, il capo dell'intelligence americana in Italia. Il giovane poliziotto riesce a smantellare la rete del controspionaggio tedesco a Roma e si guadagna la Bronze Star, una delle massime onorificenze americane. Ce ne parla Sergio Flamini, parlamentare del Partito Comunista tra il 68 e l'87, ma anche lo stesso Federico Umberto D'Amato nella voce di Paolo Bonacelli. Mi sono fatto paracadere nei pressi di Salò e ho preso contatto con i più importanti funzionari dell'OVA. Gli ho proposto un'intesa e loro hanno accettato. Angleton guardava avanti e aveva il progetto di utilizzare tutte queste persone ai fini anticomunisti. Alla fine del 1946 Angleton mi ha invitato a cena e mi ha detto: fino a questo momento ci siamo occupati dei fascisti, ma adesso il fascismo è sconfitto, il vero pericolo è il comunismo. Poco più che ventenne, D'Amato svolge incarichi di fiducia per conto del ministro dell'interno. Tra i più delicati, quello ricoperto durante il referendum tra monarchia e repubblica. A parlarcene è Lando Dell'Amico, giornalista e amico di D'Amato fin dal 1946. Lui disse: organizzai interventi nelle sezioni, eccetera, eccetera, per assicurare una maggioranza alla Repubblica. E facemmo anche delle cose illegali, cambiare nelle schede la collocazione. D'Amato avrebbe confidato a Dell'Amico di aver contribuito alla vittoria della Repubblica manipolando in prima persona le schede elettorali. È un retroscena inquietante, ma impossibile da accertare. Di certo c'è, invece, che a 31 anni D'Amato approda all'ufficio politico della Questura di Roma mantenendo contatti con Angleton, il capo dei servizi segreti americani. È un rapporto, quello tra Angleton e D'Amato, che, come racconta l'ex parlamentare comunista Sergio Flamini, continua per molto tempo. Nella sua carriera seguirà sempre un insegnamento del suo maestro Angleton. Ricordati che conoscere è potere. Ma più saggio e machiavellico è stato un vecchio maresciallo di polizia che agli inizi della mia carriera mi ha detto: dottor, ricordati che devi sempre far credere più di quel che sai, soprattutto quando non sei un cazzo. E lui si avvale di questo orientamento proprio per conoscere chi il potere ce l'ha già, per assumere un potere superiore al potere. E questo lo esercita in maniera mirabile. È così che alla fine degli anni 50 D'Amato approda l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, una divisione impegnata in un obiettivo prioritario, il controllo del Partito Comunista Italiano. Secondo le carte ritrovate nell'archivio ritrovato in via Appia a Roma nel 96, D'Amato avrebbe avuto fonti all'interno del Partito Comunista Italiano, Molotov, Leone, Acciaio sono solo alcuni dei nomi dei confidenti inseriti a tutti i livelli. In una deposizione alla magistratura c'è chi ha ammesso il suo ruolo di fonte infiltrata nel PC, Margherita Ingargiola. A ricostruire il suo rapporto con l'ufficio ci aiuta anche Giuseppe Mango, agente che lavorava per D'Amato agli affari riservati. Nel 1951 sono stata arrestata nel corso di una manifestazione a Roma contro la NATO. È stato lì che ho conosciuto D'Amato. Mi ha proposto soldi e una vita affascinante e avventurosa in cambio della scelta atlantica. Mi ha detto di portare due mie foto all'ambasciata americana in via Veneto. Io sono andata accogliendo la sua proposta di scegliere l'Occidente. D'Amato mi ha fatto intendere, e ne ho avuto conferma negli anni successivi, che era lui il responsabile dei rapporti tra polizia italiana e americana. Andavo al Teatro dell'Opera, gli davo la busta con i soldi, lei mi dava un'altra busta, che lo portava a D'Amato. Ingargiola aveva contatti diretti con D'Amato, i rapporti con la Russia, i rapporti con l'Ungheria, i rapporti con l'Albania, i rapporti interni, le correnti. Oggetto, situazione interna del PC. In sede di riunione il PC ha mostrato preoccupazioni. La federazione del PC di Siena ha acquistato un fabbricato per 18 milioni di lire. A livello nazionale nel PC si è soddisfatti dell'attività di contatti con gli ambienti cattolici. Lì si rivela un'ottima fonte. Poco dopo lei viene ad avere una cifra come confidente che era tra le migliori. D'Amato li portava dal capo della polizia con una cartella vista dal ministro. Il ministro poi ne faceva, lo sapeva lui, quello che ne faceva. La strategia di D'Amato è tuttavia difficile da decifrare. I comunisti spiati talvolta diventano commensali da studiare. È lo stesso D'Amato a scrivere di aver frequentato a tavola molti dirigenti del Partito Comunista. Queste sono le sue parole estratte dal suo libro Menù e Dossier. Napolitano Giorgio, arguto ed amabile commensale, attento nelle scelte. Berlinguer Enrico ha un menù allegro come il sorriso a base di mozzarella e pesce lesso, senza salse. Lo scopo di questa strategia ambigua è uno solo, raccogliere più informazioni possibili. Nel corso degli anni la saga dei rapporti tra D'Amato e comunisti non sembra però esaurirsi neanche con la fine della Guerra Fredda. E il cosiddetto metodo D'Amato va ben oltre il PC. Tutti i partiti sono sotto osservazione, dai liberali ai repubblicani fino alla stessa Democrazia Cristiana. D'Amato, insomma, diventa un grande fascicolatore. Ascoltiamo ancora un brano tratto dal libro Menù e Dossier. E poi le parole di Paola Carucci, il perito che ha studiato l'archivio dell'ufficio Affari Riservati, ritrovato in via Appia. Dal momento che veniamo al mondo si apre un dossier su di noi con la redazione dell'atto di nascita. Poi veniamo registrati dal parroco all'atto del battesimo. Per tutto il resto della nostra vita il nostro nome comparirà in fascicoli, elenchi, dati statistici, dalla scuola elementare all'università, dalla vaccinazione alla leva militare, dal circolo delle bocce al Rotary, dal matrimonio all'elenco del telefono, sino all'ultima registrazione, quella del cimitero. Abbiamo trovato dei fascicoli personali. All'interno vi abbiamo trovato carte del casellario politico centrale. Una vigilanza istituzionale su persone che non hanno commesso reati. Ci sono dei classici fascicoli da polizia politica con le note confidenziali su dei politici. E politici del calibro di Andreotti, Scalfaro. Anche in quel caso uno si chiede: sono solo questi? Penso di no, perché a volte si ha anche la sensazione che i ministri non conoscono tutto. I ministri passano, i capi di visione restano. Io ne ho conosciuti molti di ministri. Tambroni è stato pessimo, ottimo invece Romita, straordinari Scelba, Taviani e Cossiga. Non mi pronuncio su Scalfaro. Il peggiore? Gesù, Gava. Quando è diventato ministro mi sono caduti tutti i capelli. Ma non solo politici. Nell'archivio della divisione vengono schedati infatti anche imprenditori, intellettuali, attori, cantanti e soprattutto magistrati. I fascicoli personali che li riguardano sono 323. Per molti sono stato il fascicolatore numero uno. ed è un bel primato in un paese di fascicolatori per vocazione. Un paese in cui la lettera anonima è la principale attività letteraria nazionale. Nel 72 arriva una prima denuncia da un giornalista del settimanale Espresso che sospetta di essere sotto controllo. La magistratura scoprirà che l'ufficio tecnico degli affari riservati intercetta illegalmente giornalisti, imprenditori, perfino figure istituzionali. Un abuso che coinvolge i livelli più alti del Viminale. Sentiamo a proposito il magistrato Luciano Infelici. Quindi si trattava anche di un conflitto di poteri che indubbiamente si svilupparono e che usavano questi sistemi illeciti. Dal mio ufficio sparirono delle bobine che riportavano poi, guarda caso, proprio la presidenza della Repubblica. La magistratura è sotto pressione, ma va avanti. D'Amato viene rinviato a giudizio per abuso d'ufficio e intercettazioni abusive. È la prima volta. Poi però l'inchiesta viene avvocata dalla Procura Generale. Si rammentò più volte che esistono dei servizi nella parte dello Stato che non possono seguire pedisseguamente il codice, che non offrono il tè. Ma la giustizia archivia il caso con tante scuse. Mi è mancata solo la benedizione del parroco. D'Amato sembra conoscere tutto di tutti. Logico allora che molti inizino a temerlo, non solo per il potere che esercita in Italia, ma anche e soprattutto per i suoi rapporti con la CIA, con cui collabora fin dagli anni della guerra. Agosto 1961. Nonostante ufficialmente sia solo un funzionario come gli altri, D'Amato è a capo della delegazione del Ministero dell'Interno in visita negli Stati Uniti. Ad accoglierlo i vertici della CIA e naturalmente il suo vecchio amico Angleton. Ascoltiamo ancora Sergio Flamigni. D'Amato è il capo delegazione, perché lui ha una esperienza a livello del controspionaggio che è quella che interessa gli Stati Uniti. Rientrato in Italia, gli capita una cosa che poi sarà determinante per la sua carriera. Nel 62 per D'Amato si apre un altro fronte caldo. Stavolta gli tocca occuparsi dell'OAS, il gruppo armato francese che si oppone alla decolonizzazione dell'Algeria. Dopo un tentato golpe contro De Gaulle, alcuni dei suoi membri si sono rifugiati all'estero, soprattutto in Italia. Ascoltiamo lo stesso D'Amato. Quando un francese va all'estero, che sia un turista o un rivoluzionario, la prima cosa su cui si informa è la nourriture. Per questo io ho avuto più successo attraverso le indagini nei buoni ristoranti e nei mercati che con intercettazioni telefoniche o pedinamenti. Sono riuscito così a mettere le mani su tutti i capi dell'OAS in Italia. Uno l'ho acchiappato in un rinomato negozio di verdure mentre cercava l'eschalotte, lo scalogno. Sono riuscito anche a scovare il padre spirituale dell'OAS, Georges Bidault, ex presidente del Consiglio ed ex capo della Democrazia Cristiana francese. Lo arresta in queste condizioni, che sta per presiedere ad una riunione con altri congiurati dove si sta progettando un attentato a De Gaulle, per uccidere De Gaulle. Con la storia di Federico Umberto D'Amato riprendiamo dopo la pubblicità. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. Stiamo raccontando la storia di Federico Umberto D'Amato, importante funzionario della divisione affari riservati del Ministero dell'Interno. Nel 62 D'Amato si occupa dell'OAS, il gruppo che si oppone alla decolonizzazione dell'Algeria. Il suo capo è Georges Bidault. Alle 10 di mattina ho fatto irruzione, pistola alla mano, nella sua camera. Bidault, che era a letto, con un gesto fulmineo ha portato la mano sotto il guanciale per cercare qualcosa, con tutta evidenza un'arma. Stavo per premere il grilletto quando mi sono accorto che l'oggetto cercato altro non era che una bottiglia di verdicchio. Bidot lascia intendere di essere a conoscenza di segreti compromettenti. Se arrestato, sarebbe pronto a far esplodere uno scandalo. Ma D'Amato propone un'intesa. Bidot resta libero, ma è obbligato al silenzio e sarà accompagnato alla frontiera. Con questo comportamento, D'Amato acquisisce prestigio, acquisisce credito rispetto alla dirigenza democristiana. I successi contro l'OAS valgono al prefetto la Légion d'honneur da parte del governo di Parigi. Per D'Amato sono gli anni della consacrazione a livello internazionale. La CIA gli offre un palco per una prima Broadway, il KGB una limousine sempre a disposizione. Nei primi anni 60, infine, il ministro dell'interno Emilio Taviani lo nomina rappresentante italiano presso la NATO. È il primo non militare a ricevere questo incarico. A parlarci questa volta un suo amico, Albert Raes, capo dei servizi segreti in Belgio tra il 70 e il 90. Tutti i capi servizio avevano un grande rispetto professionale per D'Amato. Lui appariva come un uomo di mondo, navigato, colto, un gentleman davvero interessante. E a poco è diventato una specie di maestro per me. Ho imparato molto da Umberto Federico D'Amato. Sì, ho imparato davvero molto. Credo di essere stato per numerosi anni, 13 o 14, il poliziotto italiano che ha avuto più contatti con i poliziotti stranieri. Mi hanno chiamato, anche per la storia del comitato, il padrino. E se i suoi ammiratori lo considerano il più geniale uomo di intelligence del paese, per i suoi detrattori è l'anima nera della Repubblica. Ma D'Amato ama costruire di sé un'immagine di placida bonomia. A ricordarlo i suoi amici Claudio Gallo e lo chef Giancarlo Vissani. Sembrava un po' l'antitesi del James Bond. Mi mandava a Napoli a prendere la zuppa forte col polmone, il rosmarino. Cioè, e questo era un unico macellaio a Napoli che la prendeva e cioè lui se poi piano piano se la faceva. Un dossier su una persona non può prescindere dalle annotazioni sulle sue abitudini a tavola, sui suoi comportamenti davanti a cibo e bevande, insomma sui suoi gusti. Inoltre è del tutto normale che gli agenti informativi sottopongano ad attenta analisi i propri commensali, perché proprio a tavola che l'uomo rivela molto di sé. Attraverso i piatti riusciva a capire la psicologia delle persone, ma non solo, il carattere. Colto, intelligentissimo, un raffinato affabulatore. Dagli anni 60 D'Amato scrive sceneggiature per il cinema, colleziona menù, produce caroselli e collabora con la Rai. È autore di programmi di archeologia, antiquariato e gastronomia, che firma sempre con il cognome della madre, Godio. Ma in Italia, come in Europa, il clima sta cambiando. Siamo nel 68 con le sue rivolte studentesche e operaie. D'Amato sarà protagonista ancora una volta di questa stagione. Con il 68 in Europa si apre la stagione delle rivolte studentesche. Per affrontare questo nuovo scenario, D'Amato fonda il Comitato dei Servizi di Sicurezza Europei, di cui sarà presidente per quasi 10 anni. È un organismo tuttora attivo e tutti lo conoscono come il Club di Berna. Ce ne parla ancora Albert Raes, ex capo dei servizi segreti in Belgio e amico intimo di D'Amato. L'iniziativa è stata presa dal prefetto D'Amato e dal mio predecessore. Loro hanno convinto il capo del servizio francese ad ospitare un incontro a Parigi per discutere assieme sugli eventi del maggio francese, quando gli studenti hanno iniziato a rivoltarsi nelle strade di Parigi. Lo scopo era quello di elaborare un terreno comune, un programma per analizzare e contenere gli eventi destabilizzanti di quei giorni. Ma quando i gruppi contestatori si moltiplicano, D'Amato risponde infiltrando i suoi agenti nelle assemblee, nelle manifestazioni e nelle università. Ce ne parla ancora l'ex agente dell'ufficio affari riservati, Dino Capaldi. Non so quanti erano, in quale università erano infiltrati, iscritti perché erano erano studenti regolari. Fonte informazione attendibile riferisce: giovani ben introdotti nei movimenti di contestazione sono disposti a fornire dettagliate informazioni su uomini. Tutti i principali esponenti del movimento di contestazione, filocinesi, castristi, trozchisti, anarchici, sono ben noti alla direzione generale. In questi giorni si è trasferito a Milano un gruppo di giovani estremisti aderenti a Potere Operaio. Vedere questi movimenti eversivi, che cosa avevano in mente, magari quello a un certo punto, non so, poteva diventare anarchico, di Potere Operaio, di fingersi di sapere notizie. Ma invece di impedire le violenze, gli infiltrati agirebbero per innalzare la tensione nel paese. Dietro questa prassi ci sarebbe un disegno preciso della CIA, attuato prima negli Stati Uniti e poi in Europa. Nome in codice: Operazione Caos. Ce ne parla il magistrato Carlo Mastelloni. La direttiva era di implementare diciamo, il movimento filocinese in Europa, che era passibile, più passibile degli altri movimenti, di infiltrazione. Nel nome della lotta anticomunista si vede come tanti giovani hanno costituito una massa di manovra dei servizi di sicurezza o delle forze di polizia. E dopo gli scontri di piazza arrivano le bombe. 12 dicembre del 69 a Milano c'è la strage di Piazza Fontana e, come emerge dagli archivi di Via Appia, l'ufficio affari riservati si occupa da subito delle indagini. Sono loro a individuare i colpevoli tra gli anarchici di Pietro Valpreda. Partono da Roma funzionari della divisione affari riservati e vanno sul posto. Probabilmente vengono inviate sia persone che collaborano che persone che ostacolano. Le carte dell'archivio di Via Appia parlano chiaro. Gli uomini di D'Amato individuano i responsabili tra gli anarchici. La pista nasce da una fonte, Anna Bolena. Dalle veline ritrovate risulta che Anna Bolena avrebbe attribuito agli anarchici circa 50 attentati avvenuti sin dall'autunno 1968. Anna Bolena fece capire che potevano essere gli anarchici. Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle stragi di Roma della strage di Milano e degli attentati di Roma. Il mostro è Pietro Valpreda. Con lui gli anarchici del 22 marzo, un piccolo gruppo in cui c'è anche un poliziotto infiltrato, il compagno Andrea. Ma l'azione degli affari riservati non si è limitata solo alla costruzione della pista anarchica. Tra le carte di Via Appia ci sono le prove che l'ufficio ha sottratto corpi di reato che avrebbero indirizzato la magistratura sulla pista neofascista. A parlarcene è il magistrato Gerardo D'Ambrosio. C'era una volontà precisa di non spostare il processo dai binari in cui era stato incanalato fin dall'inizio. C'era questo ufficio affari riservati che decideva in un certo qual senso che cosa doveva essere comunicato alla magistratura e cosa no. Loro sapevano tutto. La conferma delle interferenze nelle indagini e nelle carte ritrovate in Via Appia, dove ciò che più colpisce è la totale assenza di documenti riguardanti la strage. A parlarcene ancora Paola Carucci, perito dell'archivio ufficio affari riservati, ritrovato a Roma nel 1996. Un attentato importante dà luogo a una quantità enorme di fascicoli, perché sapevano farle le indagini. Il fatto che poi ne rimanga poca è un dato. Per esempio, se non sbaglio, un funzionario di polizia parla delle carte sulla strage di Piazza Fontana come di una stanza piena di documenti, e noi abbiamo trovato meno di 20 faldoni. Da una parte la costruzione della pista anarchica, dall'altra la copertura offerta ai neofascisti. Questi sospetti che pesano su D'Amato. Ma non basta. Nel corso degli anni un susseguirsi di dichiarazioni attribuisce agli affari riservati la responsabilità della strage. È convinto, tra gli altri, il generale Nicola Fald, che riporta una confidenza ricevuta da Giuseppe Aloia, ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Ascoltiamo la sua deposizione e le dichiarazioni del generale Gianadelio Maletti, all'epoca numero 2 dei servizi segreti militari in Italia. L'attentato di Piazza Fontana è stato in qualche modo organizzato dall'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno. Preciso che con l'ufficio affari riservati intendo indicare il prefetto D'Amato e non l'ufficio nel suo insieme. Puntare il mirino sull'ufficio affari riservati non è sbagliato. Può essere non esatto, non precisamente lì, ma ci va molto vicino. Perché l'ufficio affari riservati era un ufficio molto più operativo di quanto non sembrasse. Trattava cose a livello operativo, sia di informazioni, sia di provocazione, sia di altro tipo. Accuse gravissime quelle del generale Maletti. Ma se Federico Umberto D'Amato, va ricordato, non è mai stato indagato per quella strage, Maletti è stato condannato in via definitiva proprio per i depistaggi sulle indagini di Piazza Fontana. Gli anni 70 del resto sono anni caratterizzati da un duro scontro tra due servizi segreti. Da un lato i civili del Ministero dell'Interno, dall'altro i militari del Ministero della Difesa. Riprendiamo dopo la viabilità. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Mix 24, la storia. Ben trovati su Mix 24. Il 28 maggio del 74 un'altra bomba provoca una strage, stavolta a Brescia, in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista. È l'ennesimo attentato che l'ufficio di D'Amato non è riuscito a prevenire. Neppure una settimana dopo il ministro dell'interno, Taviani, decide di sopprimere la divisione e D'Amato viene relegato alla polizia di frontiera. Il 14 novembre 1974, dopo una nuova strage, quella sul treno Italicus, Pierpaolo Pasolini scrive un articolo durissimo sul Corriere della Sera dell'editore Rizzoli. Il suo è un vero e proprio atto di accusa nei confronti dei servizi di sicurezza. Sono loro, secondo Pasolini, le vere menti occulte dietro la strategia della tensione. D'Amato contatta l'editore Angelo Rizzoli. D'Amato, la settimana dopo che l'articolo uscì sul Corriere della Sera, mi fece una ramanzina. Lei è giovane, faccia attenzione, Pasolini ha la testa calda, dovete stare attenti nel creare allarme nella gente, nel suscitare sospetti, nel mettere la popolazione contro le forze dell'ordine, contro gli apparati dello Stato. Voi giornalisti ci accusate di tutto, ma io non credo a questa famosa strategia della tensione che parte dal vertice con l'idea di seminare disordine per instaurare l'ordine. Mi pare un teorema non dimostrato, la strage per il golpe. Le stragi purtroppo ci sono state, ma i golpisti, quelli veri, non si sono mai fatti vivi. Ammetto di sapere i famosi segreti, le storie oscure della Repubblica, ma aprendo gli armadi con gli scheletri uno si trovava davanti delle verità banali e squallide, addirittura ridicole, sì. A rivederne adesso mi sembra di aver assistito a una gigantesca burla, un corale prendersi in giro fra magistrati, politici, giornalisti e noi, gli 007. La situazione italiana è particolarmente drammatica perché ci sono le morti impunite e questo è drammatico. E quindi se si è deviato dalla verità senza dare giustizia alle vittime, beh, queste certo sono responsabilità morali gravi. Bisogna valutare intanto come l'inquadramento dell'Italia nell'area occidentale nel periodo della Guerra Fredda abbia chiesto ad alcune persone una fedeltà diversa rispetto a quella dello Stato. Quelli sulla figura di D'Amato, lo ripetiamo, sono solo dei sospetti, quanto basta però per alimentare la nascita del mito di D'Amato come capo di un fantomatico ufficio stragi. Di lui e di un suo ruolo decisivo si continua a parlare negli anni a seguire, per il rapimento di Aldo Moro, per la morte del giornalista Mino Pecorelli e per le attività della loggia segreta P2. Nell'elenco degli iscritti ritrovati nell'81 infatti c'è anche lui, Federico Umberto D'Amato, tessera numero 1642. Terzo grado, maestro, iscritto fin dal 1976. e quando il ministro gli chiede spiegazione, D'Amato risponde con una lettera riservata dai toni durissimi. Tutto quello che ha appreso su Gelli e la sua P2 non l'ho mai tenuto nascosto, ma l'ho comunicato a chi di dovere, sia di mia iniziativa sia su specifica richiesta. Quando la magistratura mi ha interpellato, io le ho fornito tutte le notizie in mio possesso e nemmeno ho trascurato di informare i servizi di sicurezza alleati. Lui sapeva tutto, sapeva. Tant'è vero che disse al ministro: so che dice, è pieno di politici, di imprenditori, di gente di malaffare. Dice, qui dice, non è possibile mettere un intruso. Dice, mi scrivo io. Dice, lo frequento io e saprò tutto. E lui rappresentava al ministro tutto quello che succedeva. Ma come si fa a dire che uno come Gelli, che si è arricchito col centrosinistra, che aveva contatti con tutti i politici e che benediceva le nomine dei carabinieri, doveva fare un golpe? Contro chi? Se stesso. Lo scopo di Gelli non era politico, ma economico. Lui stava benissimo così, intrallazzando, facendo soldi a palate, con interlocutori che gli davano retta. Lui non osa confermare che quei personaggi sono nella P2, che li ha conosciuti. Ma robe da matti! Dice, ma Gelli mi parlava di ministri, mi parlava di sottosegretari, ma non mi ha mai fatto nomi. Nei primi anni Ottanta D'Amato continua a frequentare molte delle figure che orbitano intorno alla loggia P2, da Pietro Musumeci a Roberto Calvi, da Francesco Pazienza a Giuseppe Santovito. Alcuni di loro saranno condannati in via definitiva per i depistaggi delle indagini sulla strage della stazione di Bologna. Ma D'Amato, sotto il falso nome di Abate Faria, non esita a difenderli dalle colonne del settimanale Il Borghese. Poi, nell'84, è il momento della pensione, almeno ufficialmente. Nel frattempo è cambiato il mondo. Caduto il muro di Berlino, finita la guerra fredda, chiusa la prima repubblica, D'Amato diventa il grande vecchio dietro tutti i misteri d'Italia. Negli anni viene chiamato a testimoniare nei processi per le stragi di Piazza Fontana, Fiumicino, Peteano e la stazione di Bologna, per il presunto golpe borghese, per la loggia P2 e per le inchieste su Gladio. Ma soprattutto, tra le leggende che alimentano il mito del Mazzarino del Viminale, c'è anche il sospetto che possa avere un archivio personale. Ce ne parlano i suoi amici, il regista Sergio Spina e il giornalista Lando Dell'Amico. Quando andò via dal ministero si portò via tutti i faldoni e ce li aveva in casa. Il materiale più serio, più sensibile, lui l'aveva consegnato all'ufficio NATO di sicurezza. Però copia di questi documenti consegnati alla NATO ce li aveva lui. Roma, 31 luglio 1996. Consumato dalla cirrosi epatica e dalla gotta, D'Amato vive le sue ultime ore. Proprio di fronte all'evento finale, l'ultimo sussulto di vitalità dell'uomo si rivela in un improvviso appetito. Pochi giorni dopo la morte di D'Amato, le procure di mezza Italia si muovono alla caccia del suo famigerato archivio privato, ma non trovano nulla. Se esiste davvero o sia solo una leggenda, una tra le molte che circondano la figura del prefetto, nessuno lo saprà mai. Di certo, con la sua morte, D'Amato porta con sé i suoi segreti e quelli d'Italia. Ci sono cose che non dirò mai e che nessuno mi costringerà mai a dire. Sono stato per tanti anni un boccone ghiotto, eppure ho salvato la pelle. D'altronde posso essere credibile al 100% come gastronomo, forse un po' meno come spione.